Vogliono sapere un qualcosa di più rispetto a quello che normalmente sentono dire dall'amico, dal vicino. Vogliono una persona, un qualcuno di fiducia che riesca a darle veramente un aiuto nella scelta nel mondo molto vasto dei televisori. Vogliono solo vederlo sul punto vendita e forse anche di primo acchito capire che quello è il televisore per loro. Questa grande scelta può disorientare. A volte sì. Molte le marche, molti modelli e molte anche le estetiche dei televisori. Noi consigliamo sempre magari di controllare anche la distanza dal TV, perché a volte è fondamentale la grandezza della stanza, se hanno dei mobili o se comunque c'è luminosità. Troppa luminosità in casa corrisponde a una scelta diversa fra le tipologie dei televisori. Noi parliamo di LCD, plasma, TV in 3D, HD, Connected TV, ma poi chi viene qui conosce il significato di questi termini? Molte volte no. Alcune volte mischiano appunto questi termini particolari, per cui il digitale di terra, il LED. Prendi l'antenna diabolica che sicuramente vedi bene. Fino a che punto si può provare un televisore in un negozio? Si parte posizionandoci davanti al TV, consigliando magari qualche marca, ma inizialmente chiediamo al cliente di vedere quello che secondo lui ha dei punti di forza, per cui quello che crea forse più l'emozione in sé. Qual è il momento migliore per acquistare un televisore? Paradossalmente in settimana. In settimana forse c'è magari meno caos, tra virgolette, meno caotico. Sicuramente diciamo che ci sono i single della settimana e le famiglie il sabato e domenica. Chi fa più domande della famiglia? Il papà tecnico, molte domande tecniche, però ultimamente diamo molta importanza alla donna perché la moglie o comunque la ragazza ha sempre qualche piccolo accorgimento della grandezza, dell'estetica, per cui molte volte ci dicono anche di parlare direttamente con la donna, che è quella forse un po' più ostica. L'uomo vuole il TV, lo vuole subito, lo vuole anche bello. La donna è un po' più critica sotto questo punto di vista. Quindi scelgono le donne alla fine. Assolutamente sì, come in tutto d'altronde.